È una storia che nasce nel mandato scorso, nel 2013, anche visitando il CIE, Mero le aveva detto che era un posto dalle condizioni umane non accettabili, che si sarebbe speso anche a convincere tutti gli altri sindaci a fare una battaglia di civiltà per la loro chiusura. E così fu poi alla fine di quell'anno, con un ordine del giorno che votò la maggioranza PD e sinistra, il gruppo misto, ma non i 5 Stelle, che non parteciparono al voto, mentre le destre chiaramente votarono contro. Nel 2017, a inizio anno, Minniti propose di trasformare gli hub, e nel frattempo appunto a Bologna era stato creato un hub, un centro di accoglienza. Merola subito disse no, c'è incompatibilità ambientale, in questa città non si farà CIE e CPR, insomma questo non passa, fu molto deciso, lo dirò al ministro Minniti. Quando lo vedo un anno dopo, all'inizio del 2018, cambia completamente idea parlando di un centro di rimpatrio solo per coloro che delinquono, in barba a tutte le costituzionali, e come se potessero creare due piani di giudizio e separare le persone in questo modo e creare un sistema di giudizio di fatto per chi ha la pelle bianca e uno per chi ha la pelle nera. Non fu fatto. Adesso il governo giallo-verde chiaramente si esprime in questa direzione. La Borgonzoni ha parlato di creare un CIE, un piccolo CIE a Bologna. Bugani si è detto subito d'accordo, quindi l'asse giallo-verde si è stretto anche a Bologna in barba ai diritti umani, e di fatto il PD dice valuteremo la proposta, certo, perché poi alla fine la stessa che era stata portata avanti da Minniti. Noi ci aspettavamo una presa di posizione dura su questo, ma non ci stupisce, in quanto già l'anno scorso bocciarono il nostro ordine del giorno che chiedeva mai più né CIE né CPR nella nostra città. Ecco, e voi come coalizione civica vi state già muovendo sul tema? Sì, oggi abbiamo proprio interrogato la Giunta per capire una volta per tutte qual è la posizione univoca del Partito Democratico, per poterci poi regolare con la presentazione di ordini del giorno. Ancora una volta ci è stata data una risposta ambigua, e quindi abbiamo già capito che non si esclude una chiusura dell'hub e una sua trasformazione. Purtroppo, come sanno tutti gli osservatori delle associazioni per i diritti umani, degli osservatori dei carceri, dell'immigrazione, un CPR non è altro che un CIE a cui si è cambiato il nome, in cui finiscono addirittura ragazzi nati e cresciuti in Italia che però non sono cittadini italiani per mancata approvazione dello Ius Soli, quindi davvero un posto che viola i diritti umani. Facendo un po' il punto su qual è adesso la situazione a Bologna, a parte il possibile cambiamento dell'hub in CPR, qual è adesso la situazione per i migranti a Bologna, com'è gestita, come si è insomma rapportata anche l'amministrazione nell'ultimo periodo? Non so se c'è stato qualche cambiamento con il cambio al governo. Ma non mi risulta. Il problema dell'hub è noto, nel senso che attraverso molto spesso delle fasi in cui accoglie le persone in maniera superiore alla sua capienza, e proprio quindi le condizioni igienico-sanitarie e di dignità delle persone vengono a mancare, pur essendo un hub, appunto un luogo di accoglienza, perché stanno stipati, io l'ho visitato l'anno scorso ed erano in condizioni di un lettino attaccato all'altro, oltre 1000 gli occupanti, quindi ci sono momenti con questi picchi, e soprattutto non capita poco spesso che ci siano dei minori che non dovrebbero per legge proprio essere all'interno dell'hub, non solo che siano lì, ma che a volte siano lì fino a 10 mesi e non le poche settimane che dovrebbero passare all'interno di quel luogo. Quindi la situazione va sempre monitorata, già per avere condizioni dignitose in un hub. Parlare poi di un centro per il rimpatrio è ancora più grave, ecco. Io ti ringrazio, ti chiedo solo al volo se avete già in programma qualcosa appunto dopo l'interrogazione di oggi, se c'è qualche data a cui dovremmo stare attenti. Non possiamo presentare nulla nell'immediato perché non abbiamo ancora capito esattamente che cosa viene fatto, perché di fatto è solo stato annunciato appunto il CIE, quindi su questo non ti so dare una tempistica. Di certo quando capiremo esattamente i piani ci opporremo, come abbiamo sempre fatto.